in primo piano. Buongiorno, buon sabato, l'ultimo di agosto. Siamo già arrivati alla fine di agosto. Da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa settimanale internazionale. Come capita da un po' di settimane, da quando, forse chi mi ha sentita lo sa, ma lo ripeto, da quando mi sono abbonata a questo settimanale tedesco che si chiama Die Zeit, che in realtà guardandolo sembra un quotidiano, anche di grande formato. Parto con la segnalazione appunto da questa pubblicazione che io trovo molto interessante sia nei contenuti che nella grafica. E questa settimana la copertina, la prima pagina, è come se riproducesse una lettera, un biglietto, una nota scritta a mano che recita: Warum sind die Steuern so ungerecht, Herr Schäuble? Perché le tasse sono così ingiuste? Signor Schäuble. Schäuble è il ministro delle finanze tedesco. Cosa è successo? Che una redattrice, Lisa Nienhaus della Zeit, ha scritto una lettera a Herr Schäuble, come forse viene la tentazione di fare anche a noi con i nostri ministri delle finanze, peccato che da noi cambiano più in fretta e soprattutto non sappiamo se ci risponderebbero, e per chiedergli sinceramente, probabilmente aveva anche lei ricevuto il suo stipendio con la chiave indicata chiaramente la percentuale di tasse che va allo Stato, e lui scrive sulla prima pagina della Zeit, le ha risposto, e all'interno trovate appunto questa risposta. E è vero che noi abbiamo in Italia una pressione fiscale altissima per le persone soprattutto per le persone a reddito dipendente, che supera anche di parecchi punti il 50% di tasse. In Germania non è tanto diverso, tant'è che il servizio all'interno si intitola di Hälfte ist weg, la metà se ne va, se n'è andata. Però tutto sta, lo ripetiamo sempre fino alla nausea, a capire come poi vengono usate quelle tasse e soprattutto se le pagano tutti. E così appunto sappiamo che il 50,6% del reddito della signorina Lisa Nienhaus, e probabilmente quello di moltissimi altri tedeschi, se ne va appunto in tasse. Sempre sulla Zeit, poi passiamo ad altri giornali, un approfondimento sullo Yemen, una delle tante guerre dimenticate, eppure anche una guerra dove hanno ancora un ruolo importantissimo i fondamentalisti islamici, addirittura ancora Al-Qaeda, che invece in moltissimi altri conflitti di matrice islamica è stata soppiantata dall'ISIS. Oltre alle vittime, ai soldati, ai guerriglieri, naturalmente di tutte le parti che possiamo immaginare, ai civili morti per in qualche modo per conflitti a fuoco o per bombe, per mine antiuomo, ci sono anche le malattie. In particolare in Afghanistan c'è un'epidemia di colera, da qui il titolo Krieg in Zeiten der Cholera, che vuol dire la guerra ai tempi del colera, che naturalmente ricorda invece anche il titolo di un famosissimo libro di Gabriel García Márquez che si intitolava L'amore ai tempi del colera, un po' diverso. Ma passiamo, visto che insomma non si può sempre farsi intristire, e comunque per fortuna nel mondo non ci sono soltanto notizie tristi né scenari di guerra, e allora dal New York Times vi segnalo questo articolo tradotto da Internazionale che si intitola Le ali della nostalgia. È scritto da Patrick Smith, che tra l'altro è un ex pilota e ha anche scritto già dei libri sui suoi consigli ma per volare tranquilli, ma anche i segreti che ci può svelare un pilota. Chi è già stressato pensando a le seccature del prossimo viaggio dovrebbe ricordarsi che volare non è mai stato così economico e sicuro. È vero che a volte fa più effetto magari la notizia di un aereo che ha avuto un'avaria o un atterraggio di emergenza, che non guardare le statistiche che mostrano appunto che è molto più pericoloso in realtà spostarsi in macchina, per esempio, però insomma questa è la verità. E poi, e qui mi rifaccio anche al promo della trasmissione di Giampaolo Musumeci, Nessun luogo lontano, dove si dice: se non vi interessa sapere dei gruppi musicali di altri paesi, questo programma non fa per voi. Ecco, per esempio, vediamo sempre grazie a Internazionale un articolo che è stato pubblicato su Bloomberg Business Week sulle folli notti di Islamabad. la capitale del Pakistan, un paese che in teoria ai giovani mette dei grandi limiti a quello che possono fare, sentire, a come possono vestirsi, però ci spiega questo articolo, diverse multinazionali sponsorizzano dei rave in Pakistan in contrasto con i rigidi costumi sociali del paese, e chissà che il cambiamento e anche la maggiore libertà passi anche appunto per questa esportazione di una cosa che più occidentale non potrebbe essere, che sono appunto i rave. Ma vediamo anche altre notizie, e anche che in tutto sommato ci fanno capire che poi molti problemi sono comuni a tanti paesi. Per esempio la distribuzione degli alloggi, sappiamo, a parte l'abusivismo edilizio, che vabbè, questa purtroppo è una cosa che in Europa credo soltanto l'Italia ha ai livelli che abbiamo potuto di nuovo constatare, ricordando l'anno trascorso dal terremoto che ha colpito con la prima scossa il 24 di agosto del 2016 il centro Italia, e poi quello di Casamicciola di pochi giorni fa. E a parte quindi questo aspetto, che in Germania sicuramente è molto meno presente, c'è quello della difficoltà di trovare una casa, e la Süddeutsche Zeitung ha spiegato per esempio che trovare un appartamento nelle grandi città tedesche, dove gli immobiliaristi puntano da tempo su mono e bilocali, è sempre più difficile, e intanto in Germania si costruisce troppo in provincia, dove le case restano vuote e si svalutano, soliti un po' i problemi del mercato, che appunto se non c'è richiesta fa cadere i prezzi. È una delle leggi credo più quasi impossibili da mettere in discussione appunto dell'economia. La New York Times, Washington Post e CNN hanno reagito tutti a loro modo agli ennesimi attacchi lanciati dal presidente Donald Trump, che li accusa ogni volta che uno di questi organi di informazione, New York Times e Washington Post sono i due principali quotidiani nazionali americani, la CNN è il network All News forse più famoso al mondo, ogni volta che loro cercano di fare il loro lavoro, per quello che posso dire io dal mio punto di vista di giornalista che ammira molto il giornalismo anglosassone, quindi fanno il loro lavoro di fact checking, di cercare di raccontare i fatti separandoli bene dalle opinioni, e invece Trump dice che sono tutte fake news, lo ha ripetuto ancora, e di nuovo New York Times, Washington Post e CNN hanno risposto con i fatti. La goccia che aveva fatto traboccare per l'ennesima volta al vaso dello scontento di Trump per come secondo lui viene maltrattato dalla stampa era stato un articolo proprio del Washington Post, che aveva messo in fila 1000 affermazioni in qualche misura false del presidente Trump. Secondo appunto il Washington Post, Trump avrebbe superato quota 1000 di piccole, medie e grandi affermazioni false o fuorvianti all'inizio di agosto. Il giornale fa un parziale mia culpa per essere arrivato solo in questi giorni a pubblicare questa stima delle bugie, ma dice il problema è che siamo stati sommersi da un diluvio di asserzioni problematiche, in particolare nella seconda parte di luglio. Sui giornali in francese invece si è parlato molto di questi nuovi incarichi che potrebbero avere politici di punta. Da una parte François Fillon, ex primo ministro francese, che ha deciso di, come hanno fatto anche tanti altri politici in passato europei, non italiani, ha deciso di trovare un'altra strada che non è quella della politica, quindi diventa consulente per un fondo di private equity francese. Si è parlato appunto anche dei precedenti, Gerhard Schröder per esempio, che è stato cancelliere della Germania, è diventato conferenziere, consulente per multinazionali, non parliamo di Tony Blair che da esportatore della democrazia nel mondo è diventato consulente anche lui di multinazionali e con annesse molte polemiche. E invece François Hollande, il grande sconfitto dell'ultimo periodo, dell'ultima fase politica della Francia, perché era stato eletto presidente, ha fatto una serie di disastri potremmo dire, o comunque non è riuscito a conquistare l'opinione pubblica, e cercando di trasmettere il messaggio che nessuno in questo periodo storico, nessun governante può soddisfare i propri elettori, perché i problemi esterni che lui non può controllare sono tantissimi, sono troppi. Oddio, si potrebbe certo citare il caso di Angela Merkel, che invece molto ha fatto, ma la Germania naturalmente ha tuttora una struttura di base molto diversa da quella della Francia, che invece ha problemi abbastanza simili a quelli dell'Italia, tanto che Macron, successore di François Hollande, ha visto crollare il suo gradimento presso i francesi appena ha cominciato a parlare seriamente di riforma del lavoro. Ma a parte questo, molti giornali francesi, appunto Le Monde, Le Figaro, hanno ripreso le dichiarazioni di François Hollande, che invece lui dice che è vero che in questo momento è come se fosse in ritiro silente, ma a differenza di tanti altri non vuole, a differenza di Fillon, che appunto ha fatto notizia questa settimana per un motivo diverso, non vuole ritirarsi dalla politica in modo definitivo, perché la politica è la sua passione. Un'ultima segnalazione da Financial Times, forse avete visto che qualche giornale italiano lo ha anche ripreso questo articolo in questa settimana, ma ve lo segnaliamo comunque. Financial Times ha scritto che WhatsApp, Signal e Telegram, WhatsApp la conosciamo tutti, Signal e Telegram sono altri social network, permettono di inviare di messaggistica istantanea, più che social network, siti di messaggistica e servizi di messaggistica istantanea permettono di inviare messaggi criptati che non possono essere da altri. Si tratta di un'importante protezione per la privacy, ma allo stesso tempo di una potenziale minaccia per la sicurezza. E ricorderete tutti la grande polemica intorno al fatto che Apple non voleva dare le chiavi all'FBI per decriptare degli iPhone di presunti terroristi. Era l'ultima segnalazione per oggi, mi spiace perché avevo tenuto da parte tante altre cose, ma ci risentiamo più tardi per la rassegna stampa italiana e domani idem per la rassegna stampa italiana. Ancora buon sabato da Giulia Crivelli.